per grandinare. Ed io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano, immobile. Guarda quante case, sono tutte storie da aggiungere. Nella gente speravo ricordi di te e mi facevo cullare, immobile. Lasciami sognare, lasciami dimenticare, lasciami ricominciare a camminare a passi più decisi e fammi immaginare quanto ancora ho da fare, forse crescere e invecchiare, quanto ancora ho d'amore, quanto ancora ho d'amore. Oggi è già Natale, tutto è un carnevale di polvere.